English 24. Buonasera da Marta Cagnola. Proseguiamo con le puntate estive del nostro English 24. Riascoltiamo insieme le puntate che più ci hanno appassionato e divertito, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo, della cultura, dell'attualità, dello sport. Ovviamente solo ed esclusivamente in inglese. In tanti ci hanno tenuto compagnia in quest'ultima stagione di English 24. Ora torniamo con la memoria insieme a Giulia Crivelli al 14 gennaio scorso. Una puntata cinematografica di English 24 che ci riporta alla mostra di Venezia dello scorso anno. Il nostro ospite di English 24 è un attore bellissimo, io confesso di essere piuttosto innamorata di lui, che ha un accento, Giulia ne parleremo. Lui è Michael Fassbender, non so mai se chiamarlo Michael o Michael, perché lui è un po' irlandese e un po' tedesco. È al cinema da questo fine settimana con un film bellissimo, che non consiglio a tutti perché è un film molto forte, che si intitola Shame, Vergogna, ma sentiamo dalle parole dello stesso Michael Fassbender qual è il tema di questo film così delicato. Yeah, I suppose, you know, like everybody else, you sort of, it seems to be kind of a gray area, you know, this idea of sexual addiction, I suppose, because all of us were introduced to it probably through celebrity stories, and there's a certain, I suppose, public perception of sort of self-indulgence, perhaps, within that world. So what was interesting to discover was just how many people were claiming to suffer from it and how it wasn't being treated as an official sort of mental illness. And then it's just the various sort of factors. What was very important to Brandon's character and what Abby and Steve had really sort of put at the core of his character was this problem with dealing with intimacy and emotional content in any sort of relationship. And so trying to find that was I suppose, the hard part, because everything would sort of stem from that. Parla subito di una grey area, di un'area grigia. E di cosa si tratta, Giulia? Sì, è questa idea of sexual addiction, che è poi il tema del film Shame, che appunto vuol dire vergogna, e to be ashamed vuol dire vergognarsi di qualche cosa. E ci spiega, dice, tutto sommato non è un tema di cui si parli tanto, tant'è che all of us, dice, vabbè, lui parla per tutti, all of us were introduced to it through celebrity stories. Cioè dice che sostanzialmente to be introduced to somebody vuol dire anche essere presentati a qualcuno, però gli inglesi lo usano anche in questo senso, che vuol dire venire a conoscenza. Quindi siamo venuti a in generale, noi veniamo a conoscenza di questa sexual addiction quando riguarda le celebrities. Forse il caso più famoso è Michael Douglas, ma ce ne saranno sicuramente anche altri. Sì, che hanno detto di essere malati di questa sorta di addiction, ma come dice Fassbender l'hanno definita una vera e propria malattia. Sì, quindi dice è forse stato interessante, come uno sicuramente che si documenta prima di fare un film, quindi interesting to discover how many people are claiming to suffer from it. E già l'uso di questo claim, che vuol dire sostenere di soffrire di questa malattia, vuol dire che forse lui stesso pensa che ci sono un po' troppe persone che dicono di essere dei sexual addicts, ma forse semplicemente fanno molto sesso, amano molto il sesso, senza che questo sia per forza una mental illness. E infatti lui si è, ovviamente, lo sentiremo tra poco, occupato molto, insomma, di studiare questo tipo di disturbo, più o meno tale. Però ovviamente si è anche preoccupato di dare un'altra dimensione al personaggio. Sì, perché dice, insieme a chi ha scritto la storia, al regista, the core of the character, core che non vuol dire cuore, ma vuol dire il nucleo proprio che... Oddio, noi per in senso figurato diciamo anche il cuore di una questione, nel senso di il nucleo di una questione, però core, come core business, che è un termine forse un po' abusato, cioè il punto più importante di cui si occupa un'azienda, no? Ci sono aziende che a un certo punto decidono di occuparsi di altro, ma il loro business iniziale è il core business. Ecco, lui dice il core of the character era in realtà il problema of dealing with intimacy and emotional content. Quindi in realtà appunto il relazionarsi con le proprie emozioni e con l'intimità quando ci sono anche altre persone. In un certo senso dice che è una cosa molto diffusa, anzi è un problema che sta un po' alla base di tanti problemi in molte relazioni. Sì, forse questa è proprio la cosa, forse appunto quasi uno spunto, la sexual addiction del character di Michelle Fassbender o Michael Fassbender in questo film, che poi in realtà everything sort of stems from there. To stem vuol dire sbocciare, tant'è che stem sono anche proprio i boccioli delle piante, quindi tutto viene da lì, secondo Michael Michael. Quindi non solo è bello, ma anche utilizza una certa proprietà di linguaggio, perché abbiamo sentito parole che non avevamo ancora incontrato in English 24. Lo so, lo sto difendendo a spada tratta, sono un po' innamorata. Lui, lo dicevamo, ha studiato per bene il problema che sta alla base di questo disturbo, tra virgolette, di cui soffre il suo personaggio in Shame. Ma come ha fatto? Ha studiato dei libri, ha incontrato delle persone. Lo ha raccontato proprio lui, Michael Fassbender. I am very grateful and I was very lucky at the time to meet somebody who's suffering from exactly that. And I think it's very difficult when you're talking to somebody like that and you're trying to sort of essentially extract information out of them. So by asking them direct questions, it is not really so effective. People tend to be sort of on guard a little bit more. So I just asked them to tell me stories. And from those stories, I could get an idea of where certain motivations were born within a personality like that and how somebody suffering from this condition actually deals with it in the situation. You know, it's like how it sort of manifests itself physically, or you know, even like an embrace. The idea of that is just you just want to sort of squirm your way out of it. E questa è un'idea molto anglosassone del mestiere di attore, lo sentiamo spesso, si immergono nella storia, nel personaggio, ad esempio incontrando persone che sono molto simili al protagonista del film, e così ha fatto Michael. Sì, è proprio, dice I'm very grateful, che quasi vuol dire sono gratissimo, perché sappiamo che quando troviamo quel full vuol dire un rafforzativo, no? Come beautiful, che è più che bello, è già una sorta di superlativo, quindi sono molto gratissimo e molto fortunato anche, very lucky to meet at the time people who are suffering from exactly that. Notate che to suffer in inglese si dice to suffer from, noi diciamo soffrire di qualcosa, invece letteralmente in inglese si dice soffrire da qualcosa, quindi in questo caso naturalmente di questa sexual addiction. Non è facilissimo parlare con le persone che soffrono di sexual addiction, dice Michael. Sì, lui dice ho provato a fare, o meglio ho pensato, avrei pensato di fare direct questions, to ask direct questions, e poi mi sono reso conto that were not so effective, che in realtà non erano non effettive naturalmente, ma che non sortivano l'effetto, cioè che non erano efficaci. Ecco, attenzione, questo è un false friend, non effettivo ma efficace, perché le persone sono sort of, lui ha un po' questo intercalare, lo avrete sentito, non kind of, lui preferisce sort of, ma è la stessa cosa, è appunto un intercalare, quindi lui dice erano insomma come se fossero un po' sulla difensiva, diremmo in italiano, ma on guard, poi se pensate appunto guard è un po' lo stesso verbio, non è appunto essere in guardia, quindi essere sulla difensiva. Però lui voleva che gli raccontassero delle storie che andassero alla radice del loro disagio. Sì, e quindi proprio dice, voleva sapere where certain motivation were born, to be born, quindi essere nati, da dove venivano, diremmo in italiano, certe motivazioni. E avrete sentito probabilmente questo accento che è un po' duro, cioè parla un inglese perfetto, non ci sono errori grammaticali né di sintassi, anzi come diceva Marta è anche uno che parla forbito, però probabilmente questo fatto di aver avuto di essere cresciuto bilingue, una piccola traccia nel suo accento, la matrice tedesca l'ha lasciata. C'è un lato molto fisico di questo film che è piuttosto scandaloso, le immagini sono davvero forti, per questo non mi sento di consigliarlo a tutti, anche se io l'ho trovato personalmente molto, molto bello, ma è un film appunto estremamente esplicito, e effettivamente lui ha cercato anche di capire quali fossero le manifestazioni fisiche di questo disagio. Sì, perché è stato un merito anche del regista, che poi era lo stesso regista con cui lui aveva fatto Hunger, e non hanno risparmiato niente, insomma non è un film alla La sventurata risposa, ecco, per intenderci, no, si vede tutto quello che si deve vedere, infatti è vietato ai minori di 14 anni. Abbiamo citato il regista, Steve McQueen, sì, ha proprio questo nome che ricorda un maestro della storia del cinema, un grandissimo attore della storia del cinema, è un omonimo, Steve McQueen, hanno già lavorato insieme, e c'è una caratteristica di questa simbiosi tra Michael Fassbender e Steve McQueen, ce l'ha raccontata proprio Michael Fassbender. I remember when I was 17 and I started off doing this, and you know, my dream was to meet a director and have a relationship with the director, that of, you know, the things that I sort of looked at were Scorsese, De Niro, Lumet, Pacino, and you know, that would be the ultimate, you know, to sort of have a sort of a collaboration like that, and to be on a wavelength that powerful with somebody. And you know, that, you know, that's sort of what I was so lucky to sort of find in Steve with Hunger. So again, you know, I think you mentioned it to me in 2008 that this was sort of, you know, you had this idea, and I was like, fine, just tell me when and where, and you know, I didn't even need to see a script, so it was that simple, really. Il bravo Michael aveva un sogno fin da quando aveva deciso probabilmente di fare l'attore, di avere un regista simbolo, un regista col quale potesse esprimersi compiutamente. Fa anche, insomma, degli esempi famosi, e ce l'ha fatta con Steve McQueen, evidentemente. Tra l'altro usa questo phrasal verb, I started off. Naturalmente avrebbe potuto dire anche I started doing this, ma il fatto di aggiungere questo off vuol dire che per lui quello è stato veramente un punto di svolta della sua vita, cioè quando ha iniziato a fare l'attore, when he was 17, e aveva un dream. I have a dream, I had a dream, he had a dream to meet a director and I have a relationship with a director, con di essere in questa wavelength that powerful, cioè di essere su questa lunghezza d'onda così potente, come lui immaginava ci si potesse mettere con registi suoi miti, come appunto Scorsese e gli altri che nomina. Lo sognava da quando aveva 17 anni, sarà attorno ai 35, non ho controllato, ma più o meno quell'età. Michael Fassbender ci è riuscito appunto in tempi piuttosto recenti. Sì, tant'è che poi nel 2008, quando Steve McQueen gli ha parlato per la prima volta di questo progetto di Shame, che ovviamente credo sia stato anche non facilissimo trovare un produttore, qualcuno che credesse in questo film, perché appunto chi lo vedrà capirà perché, e quando Steve McQueen gliene ha parlato, quindi you mentioned it to me, è come se si rivolgesse a lui che era lì vicino a lui, and I was like, due punti, fine. Questo è veramente un'espressione molto gergale, l'abbiamo già vista altre volte, non vuol dire io ero come, ma noi in italiano diremmo e io ti ho detto, io ti ho fatto, cioè e io ti ho risposto. Lo si può soltanto dire parlando, non lo si può scrivere, a meno che... Sì, è proprio come dire e lui fa e io faccio. Esatto, and I was like, fine, lo facciamo questo film, just tell me when and where. Quindi lui, come ha sentito il progetto, ok, e non sappiamo se magari perché appunto gli sorrideva l'idea comunque di avere delle partner bellissime, come poi probabilmente anche sono, comunque tante, multiple, come succede. Non nasconde niente, non ha avuto nemmeno bisogno di leggere la sceneggiatura, è stato così. Sì, lui dice, insomma, era talmente entusiasta di questo progetto, didn't even need to see the script. Script, sappiamo che è il copione, la sceneggiatura, si può usare sia per un film che per una pièce teatrale o un qualsiasi altro spettacolo. Salutiamo, ai noi, purtroppo solo in registrata, Michael Fassbender. L'appuntamento con lui è al cinema per lo scandalosissimo Shame. Con noi l'appuntamento è in edicola per tutta la settimana con il nostro numero di English 24, sabato prossimo per un'altra puntata in radio. Io ringrazio Roberto Scaltritti in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.